terre lontane, terre lontane. Continua a guardare, continua a cercare là in fondo oltre il mare, terre di sole, nuvole d'oro, terre di sabbia, di rocce d'avorio. E mentre parlo, continua a sognare. Terre lontane, biglietto di andata, città indefinita, sul tetto del mondo, lo spirito sale. Un parcheggio fuori dalla città, un astuto inganno per la nostra realtà. Giardino in cielo, un paesaggio estrale, si estranea la mente, tutto artificiale. Continua a restare là sull'orlo del mare, voglio terre lontane, terre lontane.